La vede questa vicenda della Rai, lei su me la vedo esattamente così, cioè mi pare che nel momento in cui Saviano si mette a pontificare su un tema che peraltro non è il suo tema, fa un errore obiettivamente, insomma, no? Cioè il suo tema significa la costruzione dei palinsesti, il modo in cui viene organizzata una puntata, dico, e i compensi. Se lui si mette a pontificare su un altro tema che sarebbe questo, la costruzione dei palinsesti, sì, che non sì, è esattamente questo, quello del quale lui si occupa e per il quale insomma tutti quanti lo guardano contenti quando lui pontifica, perché lo fa ben d'onde, insomma, lo fa con un percorso alle spalle, sì, che gli dà l'autorevolezza per essere credibile, come è credibile quando va a parlare alle trasmissioni solo, giustamente, no? E tutti lo ascoltano. Certo, se si mette a parlare di tutt'altro, secondo me non ha la stessa autorevolezza. Senta, la scaletta che lei ha sentito anche in questi giorni, che Saviano ha detto l'elenco delle case di Berlusconi, la verità sulla monnezza e sul terremoto, sono temi, come dire, un programma politico anti-berlusconiano secondo lei, o dei temi da affrontare tout court? Il modo in cui lui li ha posti, ma guardi, questo è tutto adesso, poi insomma, senza entrare nello specifico, a me pare che tutto insomma fosse molto, cioè che quelle fossero dei temi, delle parole, delle scalette, cioè tutto fosse esattamente quello che io mi aspettavo di sentir dire da un qualunque leader di un partito d'opposizione, e peraltro dei più radicali, insomma, da uno qualunque gli esponenti del partito di Di Pietro. Per cui sa, capisce che insomma allora si sceglie di fare politica.